Da oggi l'insalata di pollo, come tutto quel che ha a che vedere con questi domestici pennuti, è fuori gioco, o almeno è fuori gioco la carne di pollo asiatica. L'Unione Europea, seguendo di poche ore una decisione del Giappone, ha vietato l'importazione di polli dalla Thailandia, il maggiore esportatore delle carni bianche nei paesi europei e anche il più grande venditore di polli del mondo, con un giro d'affari di $1 miliardi l'anno. Una decisione presa non senza imbarazzo, dopo che appena 3 giorni fa il commissario europeo per la protezione del consumatore si era tranquillamente affidato alle garanzie thailandesi sul fatto che la bird flu, la febbre che uccide, che sta dilagando in Asia, non aveva toccato il paese da cui gli europei comprano di più. Il problema della scoperta che anche la Thailandia è ammalata di bird flu, 2 casi sospetti e il primo morto ufficialmente ammessi, non riguarda però solo il commercio del pollo, quanto il fatto che il virus, dopo aver contagiato Vietnam, Corea del Sud, Giappone, Taiwan e in minor misura la Cambogia, può uccidere l'uomo. La cosa preoccupante è che finora solo in Vietnam la febbre che uccide i polli era passata anche agli esseri umani, con 5 decessi accertati. E mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a dire che finora non c'è prova di un passaggio della malattia da uomo a uomo, il caso della febbre dei polli comincia a diventare un allarme internazionale. Una sindrome da SARS che ha ormai costretto anche la reticente Thailandia, che fino a 2 giorni fa spergiurava di essere esente dal virus, ad ammettere che il pericolo c'è. Ed è grave. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.